Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Aveva preparato la sua camera per me. Sul letto troneggiava un pacco con un biglietto che diceva "Welcome to my home, your home for 5 days". Lo aprì emozionata, come una bimba. Conteneva un bellissimo accappatoio di spugna bianca. Furono i 5 giorni più belli della mia vita. Mi chiamo Fausta Vavesio. Ho 56, ormai purtroppo quasi 57 anni, sono torinese di origine, vivo a Milano dopo aver girato un po' per il mondo per motivi di lavoro. Ho 2 figlie che sono con il mio lavoro e il mio mondo. È lunedì, non è proprio un bel lunedì, o meglio, la giornata è magnifica oggi sopra Milano, però è uno di quei giorni in cui non capisci che cos'è, perché non è lunedì, non è festa, non è ponte, alcuni posti sono chiusi, alcuni sono aperti. Noi siamo in onda, sono le 16:07, minuti quasi 8 di, appunto, lunedì 31 ottobre del 2011. Mi chiedo scusa per la voce che è leggermente raffreddata rispetto al solito, ho preso freddo andando ad un campo sportivo sabato sera, c'era un po' di umidità nell'aria. 349-238-6666, oggi si parla di una cosa che non è immediatamente reperibile nella propria memoria, però se ci dedicate i soliti 30 secondi secondo me ce la fate. Tanto oggi non starete lavorando, vabbè, anche se state lavorando, se siete in macchina o se state andando al cimitero. No, non è oggi che si va al cimitero, è l'1. No, è il 2, giusto. Domani sono i santi, dopodomani sono i morti, perfetto. Vabbè, siete in macchina o siete a casa, vi prendete 30 secondi di tempo, o un minuto, o due, tanto cosa saranno alla fine, in 24 ore, e provate a riflettere sui 5 giorni più belli della vostra vita. Ripeto, non 5, non una settimana. Vabbè, magari se è una settimana possiamo anche farcela stare. Non è l'anno più bello della vostra vita, non è il mese, non è il giorno più bello della vostra vita, perché quelli, anche se sembra, sono un pochettino più facili da andare a recuperare. Pensate a 5 giorni precisi, dal 25 di un mese al 30 dello stesso mese, dal 15 al 20 di quel mese, qualsiasi fosse l'anno, e provate a cercare di ricordare perché sono stati 5 giorni più belli della vostra vita. 349-238-6666, oppure voi siete qui, @radio24.it, se volete mandare una mail. C'è anche un profilo Facebook dove scrivere, che è Matteo Caccia, io sono qui. Se non riuscite a farlo, dovreste riuscire a farlo, comunque cliccate su mi piace e tutto il resto viene da sé. Vi faccio un esempio. Loredana mi scrive: nel 2008, 5 giorni a Londra, magnifici. È proprio vero che se fossero stati 6 non sarebbero stati indimenticabili, 4 sarebbero stati troppo pochi per ricordarli. E poi Sante mi ha scritto questo messaggio che è già anche un po' straziante, e non è solo perché fa rima con il suo nome, scusate, questa la devo dire, è orribile, lo so, però Sante manda un messaggio straziante, e due, e l'ho ripetuto. Ultima settimana di settembre 1996, vacanze con mia moglie e la nostra prima figlia di appena 5 mesi. San Teodoro, Sardegna, villaggio vacanze deserto. Abbiamo fatto l'amore come mai più prima e mai più dopo. Beh, il più allora non serve, aspetta un attimo. Abbiamo fatto l'amore come mai prima e mai più dopo. Ero felice, eravamo felici, di una felicità semplice e naturale, divertente e tutta nostra. Quasi un sogno, forse lo era. Siamo separati da 3 anni, ma quella settimana vale tutte le difficoltà che poi sono arrivate. 349-238-6666. Mi fa venire in mente questo messaggio, un film di Atom Egoyan che si chiama, non ricordo più. Non me lo ricordo. Si chiama Il dolce domani, bravo Tiziano, in cui c'è proprio un personaggio che racconta del suo passato parlando della figlia che non sta bene in quel momento, e ricorda di quando andavano a fare le vacanze con la moglie e la figlia piccola in una baita su un lago immerso nei boschi, e se ne stavano loro da soli per giorni e giorni, e lo ricorda come un attimo in cui la felicità era forse ancora possibile. 349-238-6666. Luca, i primi 5 giorni dopo il congedo militare. Questi sono semplici, secchi. Fabio, Fabio è il suo cognome. 2008, 5 giorni a Monaco di Baviera, l'ultima gita scolastica. E non è l'ultimo che cita la gita scolastica. L'ultima gita scolastica, tra neve, birra e la meraviglia nel vedere per la prima volta un paese straniero. E poi, questo è il messaggio che preferisco, Carlitos, che è un ascoltatore colombiano che una volta abbiamo anche sentito. 5 giorni, probabilmente i più belli della mia vita. Avevo 17 anni, ora ne ho 45. Ero innamorato di 2 ragazze. Anche loro mi amavano, anche se entrambe ignoravano l'esistenza dell'altra. In più avevo una moto, la mia prima moto, soldi quanto bastavano e un futuro che sembrava sconfinato. E poi ancora Fabio, 5 giorni a partire da quell'esame orale di maturità. Ci sono andati in pantaloni corti per vincere una scommessa, ma sapevo che sarei già stato promosso. Sì, è vero che la semplicità sembra questi 5 giorni di felicità sembrano sempre molto distanti. Cioè il più vicino è il 2008, però parliamo comunque di 3 anni fa. Se c'è qualcuno in questo momento preciso, cioè lunedì 31 ottobre 2011, che sta vivendo, l'ha cominciato ieri o sta per finire o è in mezzo a 5 giorni di pura felicità o si immagina che stiano per arrivare, mi piacerebbe tanto sentirlo. 349 238 6666. 5 giorni di felicità oggi, a partire da oggi, o che contengano oggi. C'era un ultimo messaggio che volevo leggervi, ma non faccio in tempo, eh? Ve lo leggo dopo, perché adesso arriva la storia di Fausta, che è una storia bellissima, è una storia di grande tenerezza, grande malinconia, ma anche di grande felicità. Era il 27 di dicembre. Mentre l'aereo scendeva su San Francisco, mi chiesi cosa potessero fare insieme per 5 giorni due persone che non si erano mai incontrate. L'avevo conosciuto online, in un sito di supporto per crisi di mezza età. Più o meno uomini e donne lasciati dai partner che volevano rilanciare la propria vita con un nuovo compagno o una nuova compagna. Persone che si confortavano vicendevolmente e scambiavano esperienze. Un modo per esorcizzare il dolore, una specie di terapia di gruppo. Non mi ricordo più se 2004 o 2005, comunque 5-6 anni fa. Lavoro in internet, tra l'altro ho avuto la fortuna di abitare negli Stati Uniti nei primi anni 90, quando lì internet stava nascendo e internet mi serviva per tutto, no? Quindi in quella situazione in cui ero un pochino depressa per quello che mi stava succedendo, ho fatto una ricerca su internet e ho trovato questo sito di supporto. Lui come me era stato abbandonato a luglio, dopo 26 anni di matrimonio. Avevamo chattato a lungo, poi eravamo passati alle telefonate ed era nata una quasi assurda voglia di incontrarsi. Per la prima volta nella mia vita avevo fatto una pazzia e avevo comprato un biglietto Milano-San Francisco-Milano. Lo avevo fatto dopo che il mio ex mi aveva annunciato che avrebbe passato le feste di Capodanno con la sua nuova lei. Nessuno sapeva di questo viaggio, solo il mio più caro amico, che aveva avvisato in caso si fosse presentato qualche pericolo. E mi sentivo un po' incosciente mentre scendevo dall'aereo, ma subito diedi la colpa al mio ex per ogni cattiva cosa mi fosse successa. Atterrai, aspettai i bagagli e uscì. Per un attimo mi guardai intorno, impaurita, e poi lo vidi. Era esattamente come nelle foto che mi aveva mandato. Alto, con un velo di barba bianca e un paio di occhi di un'intensità fortissima. Ci abbracciammo, poi lui mi guardò e mi disse «You are beautiful». Mi prese per mano e mi guidò verso il treno che portava a casa, la sua casa, che sarebbe diventata anche la mia per i prossimi 5 giorni. Aveva preparato la sua camera tutta per me. Sul letto troneggiava un pacco con un biglietto con scritto «Welcome to my home, your home for 5 days». Lo aprì emozionata come una bimba, conteneva un bellissimo accappatoio di spugna bianca. Mi sentivo una regina. Da quanto tempo non avevo qualcuno che si prendesse cura di me in quel modo, che mi coccolasse in quel modo? Feci una doccia e mi stesi per riposarmi. Lui sparì. Mi appisolai per un paio d'ore. Quando mi svegliai era seduto accanto a me e mi guardava. Fu un colpo di fulmine. Tutti e due avevamo bisogno di recuperare autostima e un amante tenero e sorridente era quanto entrambi andavamo cercando. Ho pensato è proprio quello che mi aspettavo di incontrare, cioè nel senso è lui come tipo di discorso, no? Nel senso che corrispondeva perfettamente all'immagine che me ne ero fatta. Forse la mia paura più grande era che non ci fosse nessuno ad aspettarmi. Sono stati 5 giorni più belli della mia vita. Abbiamo passeggiato, chiacchierato, ascoltato musica, cucinato e ci siamo amati intensamente. Ma soprattutto abbiamo sorriso, l'abbiamo fatto insieme, dimenticando le nostre storie. Lui mi disse, non so cosa succederà in futuro, ma di sicuro avremo qualcosa da raccontare. E poi venne il 31 dicembre, la partenza fu dura, ma era stata una buona medicina per entrambi. Ci incontrammo un altro paio di volte. Io avevo un team di lavoro negli Stati Uniti e una figlia che viveva a Boston, per cui viaggiavo avanti e indietro abbastanza regolarmente. Dopo qualche tempo però lui decise che non se la sentiva di sostenere una relazione a così lunga distanza. Fui delusa, ma capii. Continuammo a scriverci, da buoni amici, e a sentirci ogni tanto. Qualche tempo dopo mi scrisse che gli avevano scoperto una malattia, non curabile, e che aveva pochi mesi di vita. «Everything happens for a reason», mi scrisse. È mancato un anno fa. Non lo pensavo, ma con lui se n'è andato un pezzo di me. Ogni tanto leggo i biglietti che mi scriveva, uno al giorno, in quei famosi 5 giorni ormai lontani. È tutto quello che mi resta, insieme ad un accappatoio bianco, di un amore che sembrava troppo bello per essere vero, ma che comunque ha cambiato la mia vita. Avete mai pensato ai 5 giorni più belli della vostra vita? Lo ripeto, non il giorno o l'anno più bello della vostra vita, quelli sono un po' più facili, perché verrebbe da dire il giorno in cui è nato mio figlio, il giorno in cui mi sono sposato, o che ne so, l'anno in cui ho costruito la casa, no? Ho aperto la mia azienda. No. 5 giorni sono un periodo di tempo piccolo, ma sostanzioso. Un periodo di tempo in cui non puoi non accorgerti che stai vivendo un momento felice, cioè non puoi farci finta di niente. Però non puoi nemmeno prolungarlo troppo quel periodo, altrimenti si annacqua e diventa solo un po' di tempo piacevole. 5 giorni di felicità è un bel titolo. Potrebbe essere il titolo di un film indipendente americano, avete presente, no? Di quelli leggeri, però scritti bene, con una bella sceneggiatura. Magari recitati da attori sconosciuti ma bravissimi, tipo che arrivano dal teatro, no? Per dire. Io dopo aver letto la storia di Fausta ci ho pensato parecchio e mi sono venuti in mente 5 giorni di pura felicità. In realtà sono stati 4 e mezzo, ma chi se ne frega, valgono sempre come 5. E sono arrivati per caso, perché non erano in programma. E quando mi ci sono trovato in mezzo mi sono sentito anche un po' spiazzato. Li ho vissuti più o meno 6 anni fa. Era autunno e non stavo lavorando moltissimo, quindi accettavo qualsiasi cosa fosse buona per tirare su un po' di soldi. E c'era un amico che lavorava con le barche che mi chiese di trasferire una delle sue barche a vela da Genova a Napoli. Dovevamo essere in 2 a farlo, ma all'ultimo momento il secondo diede forfè e quindi mi ritrovai da solo. Non è proprio simpaticissimo essere da soli a gestire una barca di 15 metri, soprattutto se non lo fai di mestiere come me. La barca però era nuova, era super accessoriata, quindi quando mi trovai a Genova e mi dissero che ero solo, un po' per orgoglio e un po' per spocchia, dissi, figuriamoci, non è un problema. E partì. Ecco, quelli furono 5 giorni di solitudine pura, cristallina. E non sempre belli, anzi, in alcuni momenti non fu per niente facile avere a che fare solo con me. Eppure sì, quelli li ricordo come 5 giorni di felicità. Il tempo fu clemente e la temperatura tiepida. Spesso inserivo il pilota automatico e facevo altro a bordo. Non successe praticamente nulla, se non a poche ore dall'arrivo, quando all'improvviso, accanto alla barca, venne a salutarmi il più grande animale del mare. Sento un rumore che non ho mai sentito. È uno sciabordio d'acqua vicino alla barca. Penso che se è uno scoglio o una secca, sono fregato. Mi fiondo al timone, spengo il pilota automatico e finalmente alzo gli occhi. C'è una leggera foschia che non mi permette di vedere lontano, ma non mi sembra di essere vicino alla costa. E poi, secondo i miei calcoli e secondo il GPS soprattutto, mancano ancora almeno un paio d'ore. Rimango immobile con i piedi ben piantati, come a prepararmi all'urto. Niente. Cerco di guardare nella foschia davanti alla barca e invece il rumore viene da dietro. È lo stesso di prima. Mi giro e vedo una coda, enorme, scura, come una grande Y, che si immerge dolcemente. Sarà un paio di metri dalla barca, o forse no, forse sono 20. E sinceramente non so se essere eccitato o terrorizzato. C'è una balena a 2 metri da me. Sì, vabbè, saranno pure 20 metri, comunque è qui. Siamo io e lei. Poi mi guardo in giro ed è sparita. Tengo d'occhio il punto in cui la pinna si è immersa, ma lei ovviamente spunta da un'altra parte. Sento sulla sinistra un soffio fortissimo, un po' come quello che fanno i freni degli autobus quando si fermano. Mi giro e la vedo. È enorme. È grigia. Ed è buona. Ecco, ora sono solo eccitato, la paura è passata. È passata perché non può essere cattivo questo esserone enorme che soffia e nuota qui di fianco a me. Riemerge e ha degli occhi enormi, scuri. E mi guarda. O forse no, forse non mi guarda, però mi piacerebbe che lo facesse. Comunque lei sa che io sono qui e io so che lei è qui. E la cosa incredibile è che la sensazione immediata è che questo non è un pesce. Respira, è caldo, fa gorgheggi strani, si immerge e riemerge. È enorme. È l'animale più grande del mondo. Eppure sembra piccola. Anzi no, non è vero, non sembra piccola. Cioè ha un modo di muoversi che la fa sembrare piccola e agile, ma non è piccola. Poi improvvisamente scompare. Mi metto a cercarla dappertutto, ma niente, è sparita, non c'è più. Poi alzo gli occhi e nemmeno la foschia c'è più. In compenso c'è una montagna là in fondo, piena di luci, di colori. È una città, credo. O forse no, è solo un porto. Quello di cui sono sicuro però è che è terra. Was this all the lie? How do I know? What's the bottom line? When I look for you, 'cause I promise to come down, and I listen hard for a still small sound, and I search for you. I promise you'll be found. And was this all a mistake? Hai ragione, davvero, hai perfettamente ragione. Non so chi tu sia, ma quello che mi scrive al 349-238-6666. Ma è possibile che ogni volta che ti ascolto citi un film di cui non ricordi il titolo? Guarda, la, sai qual è la cosa peggiore? È che non è che solo tutte le volte che mi ascolti, proprio sempre mi capita, anche quando non mi ascolti. Tu pensa che è picciu. 349-238-6666. Non ci avevo mai pensato a questa questione dei 5 giorni di felicità. A parte prima di leggere il racconto di Fausto, ovviamente. Però evidentemente nemmeno le persone che mi hanno scritto, visto che c'è della vera sorpresa. Luglio 1984, Amsterdam, lei è ancora dentro di me e va bene. 5 giorni di settembre nel 2000, spalmato sul letto a guardare le Olimpiadi e a mangiare cose poco sane, ma dannatamente buone, Stefano. E poi ancora novembre 2009, avevo 20 anni, 5 giorni a Beirut, all'inizio di un autunno inverno da solo in giro per il Medio Oriente. Mi sentivo centrato in me stesso e pronto a tutti. Sì. Capita quando c'hai 20 anni. I miei 5 giorni più belli sono cominciati a San Siro sabato sera, non sono ancora finiti. E c'è chi si accontenta di poco. Ma andiamo invece a parlare con la persona che ci ha fatto pensare che si potessero considerare un periodo di tempo come soli 5 giorni di felicità. Pronto, Fausta? Sì, pronto, ciao. Ciao, come stai? Bene, bene, grazie. Stavo ancora ridendo per la battuta dei 5 giorni cominciati sabato sera a San Siro. Devo dire che sono assolutamente d'accordo, anche per me sono benissimo. Altri, l'inizio di altri 5 giorni di felicità. Benissimo, credo che la nostra telefonata possa interrompersi qui, Fausta, non fosse che dobbiamo dirci delle cose. Okay. Ad esempio, guarda, io ho apprezzato tantissimo, al di là del fatto che appunto veramente mi hai fatto venire in mente questa questione dei 5 giorni, chiaramente non, probabilmente non lo volevi fare, volevi raccontarmi un pezzo di vita, però questa cosa dei 5 giorni è una cosa che mi è girata in testa. Ma la questione è che tu, e perdonami se azzardo diciamo delle ipotesi su di te, però io sì, mi sono fatto un po' di fatti tuoi, come capita quando leggo delle cose delle persone che mi scrivono, no? E sì, tu la sensazione che mi dai anche attraverso il tuo profilo Facebook, il modo in cui scrivevi, è che tu mi sembri una persona molto razionale, una persona, come dire, che fa delle scelte oculate, no? Guarda, non chiedermi in base a cosa, è proprio una sensazione che ho avuto. Beh, è vero, tutto sommato è vero. Eppure tu hai fatto veramente, l'hai chiamata tu, una pazzia quel giorno, no? Cioè hai pigliato un volo aereo. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Che ricordo hai del momento in cui, non tanto del momento in cui sei andata, l'hai incontrato, perché questo ce l'hai raccontato, ma del momento in cui ti sei stupita del fatto di aver fatto una cosa che non avresti fatto, pensavi che non avresti mai fatto? Ma tutto sommato sono stata molto contenta di averlo fatto, quindi mi sono accorta che certe volte un po' di pazzia può essere utile per dare... Ma una... tipo che rifaresti una cosa di questo genere? Cioè non questa cosa qua, però una cosa così fuori dai tuoi canoni? Sì, sì, probabilmente sì, proprio perché questa cosa mi ha insegnato che ogni tanto forse un pizzico di pazzia, proprio perché io sono una persona molto razionale, forse ogni tanto un pizzico di pazzia può essere utile a uscire un attimo dai binari e a provare delle sensazioni diverse. Mi dici com'è la tua vita, Fausta? Cioè che lavoro fai? Hai dei figli? Dunque, sì sì, io assolutamente diciamo che sono consulente, mi occupo di nuove tecnologie, per cui sono molto attenta anche a tutti i discorsi social network, Facebook e via dicendo. Cioè, nel senso che hai una società di consulenza? Sì, esatto, esatto. È una piccola società di consulenza. Io ho lavorato per grandi aziende di consulenza fino a circa 3-4 anni fa. Poi appunto avendo io ho due figlie, le quali adesso hanno 24-27 anni, che a questo punto erano, diciamo, quasi indipendenti, nel senso che ormai tutte e due lavorano con tutti i problemi dei giovani alle prese, certo, con i primi stipendi un po' contenuti, voglio dire, però ho deciso che volevo anche qua fare qualcosa di nuovo un pochino per me, quindi, prendermela un pochino più con calma sul lavoro. Ma, quindi, ma tu lavori ancora però adesso, Fausto? Sì, sì, assolutamente sì, solo che appunto ho iniziato questa attività più, diciamo, low profile con un paio di soci, okay, e tutto sommato facciamo un lavoro che non ci rende tantissimo ma ci diverte molto, ecco. Senti, diciamo tu, che tu sei, vivi a Milano, Fausta? Sei... Io vivo a Milano. Vivi a Milano, sì. Senti, e poi ti devo salutare perché stiamo andando lunghissimi, però a proposito di questa storia della felicità, tu hai un tuo modo per ricercare la felicità? L'hai elaborato o l'hai capito, l'hai intuito? Diciamo che sto ancora facendo dei tentativi. Va bene, Fausta, ti ringrazio moltissimo e goditi questi altri 5 giorni di felicità che sono cominciati sabato, giusto? Sì, e che tu dici finiranno presto. Buona giornata, grazie Fausta. Grazie a te, ciao. Ciao, Matteo, grazie mille. Ciao. Dal 24 al 28 di dicembre, mi scrive Annalisa, di ogni anno, perché sto con la mia famiglia. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. La faccia di Fausta nella foto che ci ha mandato a voi siete qui, @radio24.it, ricalca esattamente la sua voce. Cioè, io me la immaginavo proprio così. È bionda, ha i capelli a caschetto, direi. Però forse le donne saprebbero descrivere meglio questo modo di avere i capelli. Quelli che qui davanti sono un po', come si dice, Laura? I capelli scalati, qua davanti un po' scalati. Cioè, ha un po' di frangetta anche, però sono scalati. Ha un bel viso sorridente, ha, mi pare, due orecchini. Beh, come tutti, ha un orecchino per orecchio, e sembra decisamente felice. Le foto le vedete sul sito, come al solito, come tutti i giorni, insieme ai brani che mandiamo in onda. Il sito è quello di Radio 24, la pagina è quella di Voi Siete Qui. Visto che si parlava di 5 giorni di felicità, prima... Aspetta, però tra l'altro era arrivato un messaggio che diceva questi due qua. I primi giorni del 1997, 5 giorni di felicità, con gli amici su un rompighiaccio in Antartide e la notte del ritorno in Terra del Fuoco, tutti a ridere fino a perdere le forze, senza motivo, solo per pura felicità. Una risata che ci ha donato anni di vita e che non ho mai più riprovato da allora, caro da Ferrara. E poi ancora Andrea, 5 giorni di felicità in Trentino, sciando sempre in neve fresca, l'ultimo giorno abbiamo cavalcato una valanga. Questa è al limite chiaramente della denuncia, però evidentemente a qualcosa è servito. Prima di andare in onda, ci siamo ricordati in redazione, in questa splendida redazione che è composta oggi da Laura Faggin in sostituzione di Margherita Ina, che dov'è? Vomita ancora? Sta male? No, è semplicemente in vacanza, oggi è ponte, c'è un ponte oggi, no? Giusto. Allora, non è che bisogna vomitare per forza tutti i giorni, basta fare un ponte. Scusate. Allora, è venuta fuori questa notizia, che è una notizia di qualche tempo fa, che però in realtà sta proseguendo, perché pare che è nata in Bhutan, il governo del Bhutan nel 2010, a metà del 2010, lanciò questo nuovo misuratore della felicità, che andava non contro il PIL, però andava da un'altra parte rispetto al PIL, che si chiama GDH, cioè che sta per Gross Domestic Happiness, in italiano molto banalmente FIL, FIL, felicità interna lorda. In pratica è un misuratore della felicità che non si basa solo sul denaro e sulla capacità produttiva di un paese, ma sulla percezione di un equilibrio globale tra il benessere economico, la cultura, le relazioni con gli altri e il rispetto della natura. Ora, devo dire che, cioè, la percezione di equilibrio delle relazioni con gli altri, non capisco esattamente cosa voglia dire, però addirittura leggevo che Sarkozy ha nominato una commissione di economisti presieduta dal premio Nobel Joseph Stiglitz per procedere alla riforma del PIL inserendo questo misuratore. Eccolo qua, aspetta un secondo. Il PIL si basa su 4 pilastri. Cioè, appunto, l'esistenza di uno sviluppo economico equo e sostenibile, che include istruzione, servizi sociali e infrastrutture. Sembra un po' Barisoni, eh? Sembra un po' Barisoni. E poi la conservazione ambientale, la cultura, intesa come serie di valori, vabbè, eccetera, eccetera. E infine il pilastro su cui si fondano tutti gli altri, cioè il buon governo. Laura Faggin ci teneva a ricordarmi che cos'è, un imperatore? Il governo, no, il re del Bhutan si è appena sposato a 31 anni con una 21enne bellissima che è una studentessa, giusto? Non è nulla di che, è un po' come Pippa. No, aspetta, ma Pippa non è sposata. Come si chiama l'altra? Kate. No, che non è una nobile, no? È una borghesuccia. Cioè, borghesuccia, è una borghese. È una. Vabbè, starà bene, dai, che borghesuccia. Starà bene di famiglia. 349-238-6666 1980. Lavoravo come cameriere sulla Love Boat. Avevo 21 anni. Vogliamo parlarne della crociera? Io voglio fare una crociera. Perché ogni volta che dico che voglio fare una crociera, tutti mi guardano come un folle. Ma secondo me, tutti di là, da questo microfono, in questo momento, sottovalutano i 5 giorni di felicità che possono essere legati a una crociera. Perché la crociera ti deresponsabilizza. Cioè, tu non devi fare più niente. Fanno tutto loro. No, non è come salire su un aereo, Bonini. Eh no, perché sono 5 giorni. Ti danno da mangiare, ti fanno ingrassare. Allora, ritorniamo qua. 1980, lavoravo come cameriere sulla Love Boat. Avevo 21 anni e tanta voglia di vita da crociera. Vedi? DH, cosa vuol dire? Che cos'era questo? Era una vita da crociera. 7 giorni nei Caraibi. Al secondo giorno avvicino la passeggera più bella, battendo tutta la concorrenza, e con lei passo i 5 giorni più belli della mia vita. Questo mi sembra, ti dico la verità, questo messaggio mi sembra finto, però io mi auguro per te che invece sia andata così. Un anno fa, quando è nata la mia seconda figlia, per cui mi sono dovuto occupare da solo della più grande, che aveva 3 anni. Tra me e lei è nata una complicità, o comunque qualcosa che non è mai più cambiato, ed è qualcosa di speciale. Viva quei 5 giorni! Adesso però, sempre prima di chiudere, volevo leggervi, come al solito, no? Andiamo alto e basso, magro e grasso, largo e stretto. Tiziano ha trovato, perché è lui la parte che si occupa di queste cose a redazione, un testo del 1930, che è di Bertrand Russell, che si chiama La conquista della felicità. C'è un capitolo, il 17°, che si intitola proprio L'uomo felice. La cosa strana di queste parole di Bertrand Russell è che sono veramente semplicissime, ma a risentirle ti viene da dire: ma com'è che non mi è venuta in mente prima? Certe cose sono indispensabili per la felicità della maggior parte degli uomini, ma si tratta di cose semplici. Il pane è un tetto, la salute, l'amore, un lavoro fortunato e il rispetto del proprio ambiente. Per altri sono essenziali anche i figli. E là dove queste cose mancano, soltanto l'uomo eccezionale può essere felice. Ma dove esistono, o dove con sforzi bene indirizzati è possibile ottenerle, l'uomo che ciò nonostante è infelice soffre per forza di qualche squilibrio psicologico. Noi tutti dovremmo sforzarci, quindi, sia nell'educazione che nel tentativo di adattarci al mondo, di evitare le passioni egocentriche e di acquisire quegli affetti e quegli interessi che possono impedire ai nostri pensieri di indugiare continuamente solo su noi stessi. Felice è l'uomo che vive obiettivamente, che ha affetti liberi e vasti interessi, che si assicura la felicità mediante questi interessi e questi affetti e mediante il fatto che essi, a loro volta, fanno di lui un oggetto di interesse e di affetto per molti altri. Essere oggetto d'amore è una causa potente di felicità. Ma l'uomo che chiede l'amore non è colui al quale viene concesso. L'uomo che riceve l'amore è generalmente colui che lo dà. Cinque giorni di felicità, 5 giorni in vacanza a Stromboli, che senza macchine la mamma mi mandava in giro da solo a 6 anni, ora ne ho 8. Non so se è vero questo messaggio, oggi forse ho qualche problema con la verità, con la finzione, visto appunto anche quello, anche non solo oggi, in generale ho problemi con la verità e la finzione, soprattutto dopo sabato sera, serata in cui ho perso la voce in un campo sportivo. Poi Luca da Milano mi scrive invece: chiedere se era la Pacific Princess, proprio scritto proprio così. Non so se poi vuoi darmi qualche altro ordine, non lo so se vuoi che chieda a Laura Faggin qualcosa di personale. Non so se era la Pacific Princess, ha chiamata proprio Love Boat. E poi ancora, e questo è il messaggio di una mamma, e secondo me tutte le mamme in questo momento potrebbero commuoversi, perché tutte le mamme vorrebbero che il proprio figlio la portasse in giro per la città in cui vive, mostrandole tutti i posti che lui ha amato. 5 giorni, compreso il viaggio in treno, da sola, in visita a mio figlio in Erasmus a Parigi, in giro, guidata da lui che vuole mostrarmi tutto quello che lo ha affascinato, come ad una coetanea. Un sogno che ancora oggi rivivo con il cuore. PS, ci sono tornata altre due volte, Patrizia. Però in realtà questo ci sono tornata altre due volte sembra un po' chi se ne frega. Ecco allora che vorrei lanciare un appello a Tiziano Boni. Tiziano, fai venire tua mamma a Milano, la porti 5 giorni in giro per la città e le fai vedere la tua città. Da Foligno a Milano on the road. 1995, Dolomiti, alta via numero 1. Cos'è, Tiziano? È un'alta via numero 1, è una ferrata, una... È una via, giusto? Alta via numero 1 con il mio compagno nel meraviglioso scenario delle Dolomiti. E poi ancora... Eccoli qua, mi sono venuti in mente i 5 giorni. C'è qualcuno che mi scrive, Antonio da Prato mi scrive: ci ho pensato, mi sono venuti in mente i 5 giorni al Santuario della Verna a fare la stessa vita dei frati francescani. Al Santuario della Verna. Hai capito? Volevo ringraziare tutti quelli che continuano a scrivere i racconti a voi siete qui @radio24.it. I racconti che continuano ad arrivare sono anche molto belli. Oggi ne abbiamo letti diversi insieme a Tiziano, cioè ci siamo confrontati con Tiziano e devo dire che, come dire, vorrei... No, non lo posso dire. No, non lo posso dire. No, cioè, no, ridammi sta base che così mi imbarazzo altrimenti, Pietro. No, nel senso che sono proprio belli. Sono... non sto dicendo che siano più belli di quelli che erano già arrivati, però sono proprio dei bei racconti. E quindi continuate a scrivere, perché forse sta succedendo qualcosa. Voi siete qui, @radio24.it. Vi ricordo, un episodio della vostra vita, semplicissimo. Che sia una piccola storia, che abbia un inizio, uno sviluppo e una fine, e che duri una pagina. Guardate, passiamo anche una pagina e mezza, però non di più, perché altrimenti poi dobbiamo snaturarlo. E poi ancora Roberto, Stati Uniti 11 anni fa, solo e libero da tutto e da tutti. Io ringrazio quelli che hanno fatto sì che questa puntata andasse in onda oggi, in questo giorno strano, che non è festa, ma non è neanche ponte. E sono Pietro Lacorte, Tiziano Bonini e Laura Faggin. La storia di oggi era la storia di Fausta e parlava, se non l'avete capito, di 5 giorni di felicità. La storia di domani invece è la storia di Monica e racconta dei luoghi che non frequentiamo più. Sono cresciuta nella casa dei nonni. Lui era un uomo semplice. Gli erano stati concessi pochi studi, visto che a 9 anni già faceva da garzone ai muratori a Giaveno. Quella sera, a cena, mamma ed io eravamo a casa loro, dai nonni. Mio papà ferroviere lavorava. «Stasera mi sento proprio bene», disse nonno Matteo.